l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato alla cultura europea, un programma in collaborazione con il network paneuropeo Euronet. Ogni settimana voci diverse, punti di vista diversi per raccontarvi qualcosa che vada anche al di là della quotidianità, dell'attualità, che viene comunque narrata giorno per giorno da Radio 24. I social network per seguirci in diretta, Facebook, sulle nostre pagine per conoscere i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure Twitter, l'account è @ Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, oggi si parte dalla Grecia. Età. Il vento soffia là, sua immagine nel vetro dietro il bar. Gocce di pioggia, bufere d'amore. Ci facciamo accompagnare dalle sonorità di Vinicio Capossela col suo rebetico. Andiamo ad Atene, un'altra settimana di tensione, di scontri, di proteste, anche con un morto, non conseguenza diretta degli scontri, ma quasi, perché appunto è stato un infarto di un sindacalista. E andiamo a conoscere la situazione greca, ci andiamo con una collega e una freelance italiana che racconta la crisi spagnola, la crisi greca attraverso le storie delle persone. In questi giorni è proprio ad Atene per cercare alcune di queste storie. Diamo il ben ritrovato a Mariangela Paone. Ciao Mariangela. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Tu giovedì c'eri, hai vissuto in prima persona le proteste, gli scontri che hai raccontato anche minuto per minuto via Twitter. E intanto com'è la situazione in queste ore? No, ora insomma la situazione è tranquilla, anche giovedì dopo la manifestazione, purtroppo di nuovo le molotov e i lacrimogeni, insomma la situazione è tornata tranquilla ad Atene. Purtroppo però giovedì è stato come un déjà vu, no? Mentre il primo ministro Samaras aspettava a Bruxelles che dal Consiglio europeo gli dessero una pacca sulle spalle, qualche buona parola sulle riforme che sta facendo, davanti al Parlamento, a Piazza Sintagma, si ripeteva un copione purtroppo già scritto. È un po' tragico, se vogliamo, l'anniversario che hanno vissuto i cittadini di Atene, perché esattamente un anno fa, il 20 ottobre del 2011, in un'altra manifestazione, mentre si approvava un altro pacchetto di tagli per ridurre il debito, morì in circostanze molto molto simili un altro impiegato disoccupato, questa volta al settore della costruzione, anche lì per un attacco di cuore. Il signore che è morto giovedì aveva 65 anni, era da 6 anni disoccupato, era un ex marinaio e non era nemmeno riuscito ad arrivare alla pensione. Quando ho parlato con il PAME, che è il sindacato legato al Partito Comunista, per aver conferma della morte di questa persona, quello che mi hanno detto è che non sono stati lacrimogeni, come si è detto all'inizio, ma lo stress, il forte stress in cui viveva questa persona. Certo, e questo comunque è emblematico della pesantezza della situazione. Mariangela, c'è un dettaglio che mi ha colpito quando mi hai anticipato un po' quello che avevi vissuto giovedì: molotov, manganelli, scontri, però i negozi aperti, perché comunque è un segno di non volersi rassegnare, o anche quello è un segno della disperazione? Sì, diciamo in alcune strade centrali di Atene alcuni negozi continuavano ad essere aperti perché la gente ha paura. Insomma, quello che ti raccontavano è che le persone ovviamente hanno paura di perdere il posto di lavoro. e quindi, siccome poi gli scioperi sono sempre più frequenti, questo sciopero generale giovedì era il secondo in 3 settimane e il quinto dall'inizio dell'anno, quindi insomma purtroppo le persone devono scegliere anche se andare a protestare o proteggere il posto di lavoro, ed è una scelta insomma che si può opinare, su cui si può opinare o no, però è anche il sintomo della difficoltà in cui vivono. Tu hai scelto di raccontare le crisi attraverso le storie delle persone. In questi giorni è possibile trovare storie di riscatto, storie di ripartenza o comunque la depressione generale? Guarda, quello che si vede sono iniziative piccole, insomma anche di piccoli collettivi che cercano di operare su piccola scala, come diciamo delle agenzie di solidarietà, no? tra cittadini. Ed è un po' quella rete che si sta costruendo per reggere alla mancanza di sicurezza per il lavoro, per quello che sarà il futuro. Ieri Samaras ha detto insomma non abbiamo soldi dopo il 6 novembre, lo disse anche ad agosto riferendosi a settembre, quindi magari fa parte della negoziazione, no, con la Troica e con i creditori della Grecia, però è anche un dato di fatto, la gente insomma non ci arriva a fine mese. Grazie davvero a Mariangela Paone, ti lasciamo al tuo lavoro, ricordiamo il blog per seguirti, elfindefiesta.wordpress.com. Grazie davvero, buona giornata Mariangela. Grazie a te. Europost-it. Trasporto pubblico verde e moderno. A Milano arriva il Mobility Tech. Il progresso dell'Europa dipende anche dal rafforzamento dei suoi trasporti pubblici. Ecco perché il Forum Internazionale sull'Innovazione Tecnologica per lo Sviluppo della Mobilità e il Trasporto torna a Milano lunedì 22 ottobre e martedì 23. L'obiettivo di Mobility Tech è quello di offrire un punto di incontro per imprese e amministrazioni locali ed europee per dare l'opportunità ai professionisti del settore di illustrare le più recenti innovazioni nel campo. La 2 giorni sul trasporto pubblico verrà inaugurata lunedì mattina alle 10 con la sessione istituzionale plenaria a Palazzo Giureconsulti, dove avrà luogo un confronto tra amministratori e imprese produttrici di tecnologie green. Il tutto alla presenza del ministro Corrado Clini e di Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo all'industria e imprenditoria. Per maggiori informazioni visitate il sito mobilitytech.it. What we focus on today is internships. Internships can bridge the way from education to the labor market, but way too often we see that interns are used as cheap labor, that there are no legal protection around interns, and that there are no social rights and maybe even no contract. We need to improve that situation. We need to ensure decent internships. And that's why we present today a charter, a quality charter for internships to cover all young people in Europe. Internship. L'Europa può fare di più per i suoi giovani? Questa è la domanda che si pone Euronet questa settimana. I giovani in Europa sono più istruiti che mai, ma si ritrovano sempre davanti a un maggior rischio di disoccupazione e non solo. Di giovani in Europa si è parlato in questi giorni a Bruxelles e lo si è fatto attraverso l'European Youth Forum, giorni di confronto sui giovani e non solo. E appunto abbiamo scoperto, non la conoscevo, l'ammetto, questa ONG fondata proprio per difendere le istanze europee e spingere le istituzioni europee ad investire nei giovani. Con noi c'è Letizia Gambini, che è responsabile appunto di European Youth Forum. Ciao Letizia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, salve. Cosa vuol dire difendere oggi le istanze giovanili in Europa e come operate? Beh, le istanze giovanili in Europa sono, a proposito dei diritti dei giovani, noi cerchiamo di identificare delle priorità generazionali che poi riescono anche a far sì che questa generazione di giovani sia completamente autonoma e inserita nella società. Lo European Youth Forum difende gli interessi dei giovani attraverso meccanismi, diciamo, di advocacy verso le istituzioni europee. Un esempio concreto, il nostro charter sugli stage di qualità, che abbiamo promosso proprio quest'anno, anche in collaborazione con alcuni membri del Parlamento europeo. Ma quello che si cerca di fare, per capire anche le difficoltà reali, è quello di essere un ponte tra i giovani e gli adulti o tra i giovani e le istituzioni? Qual è il link più complicato? Sicuramente quello con le istituzioni, però direi che è essenziale cercare di anche prendere le istanze dei giovani, i diritti dei giovani e anche definirli nei confronti della società in generale. Molto spesso si parla di conflitto intergenerazionale, noi invece parliamo di cooperazione a livello intergenerazionale. Avete portato avanti delle istanze precise, avete presentato delle richieste, ce le vuoi sintetizzare? Sì, l'Europa in questo momento è un momento cruciale nel mezzo di una crisi di cui per adesso non si vede la fine, ma stiamo decidendo il nostro budget europeo per i prossimi 7 anni, dal 2014 al 2020. Il Forum Europeo dei Giovani sta cercando di far sì che negli investimenti di questo budget un grande focus sia posto sulla gioventù. Si vede, insomma, dai numeri che crescono ogni giorno dell'impiego giovanile che non c'è, stiamo chiedendo alle istituzioni europee e agli Stati membri di investire almeno 20 miliardi di euro nei programmi di educazione, formazione e gioventù. Quindi investimenti reali, appunto. Sono a rischio molti dei programmi per i giovani, il quadro finanziario è quello che è, e si va a tagliare sempre sull'istruzione, sulla cultura e non solo, insomma è notizia fresca di questi giorni quello che sta accadendo con il progetto Erasmus, no? Dove c'è questo taglio forte dei finanziamenti. E, Letizia, ma secondo te è proprio il problema vero è quello legato alla formazione e all'istruzione o è quello legato alla mancanza di lavoro? Qual è la priorità reale che voi avete sottolineato o denunciato? L'idea principale, il problema più grosso è proprio di creare opportunità perché i giovani si possano inserire nel mercato del lavoro e che possano anche transitare, diciamo, dall'educazione al mercato del lavoro in maniera più tranquilla, più smooth, no? Diciamo sì. In inglese. E l'idea è proprio di avere degli strumenti che possono contrastare il fenomeno dei giovani che sono chiamati NEET, no? Not in education, employment or training, che non stanno studiando, che non stanno lavorando e che non stanno neanche usufruendo di formazione permanente. Tra le vostre campagne c'è quella, appunto, la richiesta di una garanzia che permetta di non rimanere fuori dal mondo del lavoro per più di 4 mesi, una campagna per stage di qualità, per la formazione continua e anche per il coinvolgimento dei giovani nella partecipazione democratica. Chiedete a gran voce che possano votare già dai 16 anni? Esatto, la proposta è un po' anche una provocazione, non so se quanti del nostro pubblico anche sanno che in Austria i giovani già votano dall'età di 16 anni, è l'unico paese europeo in cui questo diritto parte dai 16 anni. Stiamo chiedendo all'Europa a gran voce che si abbassi l'età del voto a 16 anni in tutti gli stati europei, perché crediamo che prima si comincia a coinvolgere i giovani nella partecipazione democratica e prima i giovani si sentiranno anche coinvolti nella politica, nelle decisioni, nel modo di organizzare la nostra società. Con che umore sei uscita da questi giorni di lavoro a Bruxelles? Beh, noi cerchiamo sempre di avere un umore abbastanza positivo. Lanciamo proprio in questi giorni questa campagna che si chiama Love Youth Future, quindi il futuro, cerchiamo di anche coordinare il supporto alla gioventù come, diciamo, anche uno strumento di amore verso la nostra società, verso i giovani che parteciperanno a queste iniziative, e speriamo di avere un po' di sostegno anche dalle istituzioni, dai nostri interlocutori principali, quindi dalla Commissione Europea, dal Consiglio, dagli Stati membri e dal Parlamento. Un sito per seguirvi e per contattarvi in caso di richieste di informazioni? Beh, abbiamo il sito della nostra organizzazione, www.youthforum.org, e abbiamo il sito della campagna in cui si possono vedere tutte queste richieste anche a fronte del nuovo budget, loveyouthfuture.eu. I link è già nelle nostre pagine sia in Facebook sia su Twitter, e grazie davvero e complimenti per il vostro lavoro, a te e a tutto il tuo team. Ciao Letizia. Grazie, a presto. Europost-it. Consigliato da tutte le nonne. Scambio su cibo e cultura. Se hai tra i 17 e i 25 anni e hai la passione per il cibo come mezzo di comunicazione e di unione tra le culture, questo scambio fa per te. Food and Culture, recognized by your grandmother, è un'esperienza unica che si terrà a Manisa, in Turchia, dal 6 al 14 novembre 2012. Lo scambio punta a sensibilizzare i giovani e a promuovere uno stile di vita sano attraverso la profonda conoscenza del cibo e la conoscenza delle caratteristiche, anche apparentemente strambe, dei diversi piatti tradizionali di molti paesi europei. Per maggiori informazioni visitate il portale scambieuropei.info. Cette réforme de la semaine de 4 jours et demi doit pouvoir être engagée, je dis bien engagée, dès la rentrée 2013. La réforme des rythmes scolaires n'est pas la clé de tout. C'est pas elle qui va être le sésame pour régler l'ensemble des difficultés que nous connaissons. Mais c'est le levier de la réussite. L'objectif est de permettre aux enfants. È il presidente francese Hollande, quello che state ascoltando, lo aveva detto che avrebbe voluto riformare la scuola in Francia, che è un grande tormentone quello della riforma del sistema scolastico francese. Niente compiti a casa, cambiamento degli orari, niente bocciatura, scuola materna aperta anche a 3 anni, sono alcune delle prime indicazioni uscite da questa bozza di riforma. Un cambiamento sostanziale, perché ci sono comunque soprattutto il discorso dei compiti, che in Francia non lo sapevo, ma dal 1956 i compiti scritti sarebbero proibiti alle scuole elementari. Ovviamente tante reazioni, ma visto che si parla di giovani e visto che parlare di sistema formativo vuol dire parlare dei giovani di oggi e di domani, volevamo approfondire quello che sta accadendo in Francia. Abbiamo invitato Antonella Verdiani, dottore in scienze dell'educazione, ricercatrice, ha lavorato all'UNESCO dove si occupava di educazione alla pace ed è esperta di scuole e sistemi scolastici nel mondo. Buongiorno Antonella, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Tu vivi in Francia? Sì, vivo a Parigi da un po' più di 20 anni. Sì. Ma come mai che c'è sempre voglia di mettere mano al sistema scolastico francese? Fa acqua da tutte le parti o è una sorta di tentativo di mettere il proprio timbro sulla legislatura? Ma diciamo che il sistema francese è molto... diciamo che i ragazzi sono molto stressati all'interno delle scuole, non solo i ragazzi ma anche gli insegnanti, e questo provoca sofferenza, quindi non so se il sistema fa acqua, ma comunque le ricadute e le conseguenze di questo stress, di questa sofferenza si vedono anche, non so, per esempio nel fatto che ci sono sempre più insegnanti che chiedono di essere in quello che si chiama congé maladie, cioè di essere sollevati dal loro lavoro, perché sono sotto stress, soprattutto nelle zone in difficoltà, le famose ZEP. Ma stress dovuto da cosa? Più che per gli insegnanti mi interessa sapere per gli studenti. C'è un carico di lavoro eccessivo? C'è un carico di lavoro eccessivo, ci sono stati fino adesso dei ritmi scolastici molto molto stretti. Infatti quello che diceva Hollande, che avete sentito prima, ha annunciato la riforma che si chiama Rifondiamo la scuola, ha annunciato questa riforma che ha come punto principale la riforma appunto dei ritmi scolastici, cioè l'allentamento, un attimo di respiro per i bambini fino dalla scuola elementare. Perché? Che significa che prima, per esempio, i bambini erano sottoposti a dei ritmi durante la giornata assolutamente surrealisti, cioè i bambini arrivano da scuola verso le 4:30, 5 e poi si devono mettere a fare i compiti, che è una follia. Dal punto di vista proprio psicologico, della crescita psicologica e anche fisica, è qualcosa che va al contrario del benessere del bambino. Certo. Quali sono state le reazioni, soprattutto dei genitori, mi interessava capire, e dell'opinione pubblica, insomma? Intanto c'è una fortissima attenzione che è data a questo progetto di riforma. Ricordiamoci che questo è soltanto un rapporto, quello che è uscito, quindi la legge si sta elaborando in questo momento e dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Diciamo che comunque questo rapporto è il frutto anche di una concertazione collettiva che non è stata semplice. Ci sono state opinioni molto diverse, non sono mancate, non c'è l'unanimità e questo da parte anche dei sindacati di insegnanti che sono fortissimi qui in Francia. I genitori stanno aspettando, ci sono state anche delle associazioni di genitori che sono state coinvolte nell'elaborazione del rapporto e comunque c'è una grande attesa perché diciamo che le linee che sono state enunciate nel rapporto sono molto interessanti, c'è un'apertura. Diciamo che si va verso un'apertura nell'inclusione per esempio di pratiche pedagogiche che sono state considerate sempre alternative che forse adesso saranno integrate all'interno dei programmi dell'educazione nazionale. Certo, e c'è un'istanza democratica che è quella che ha rilanciato fortemente il Presidente, anche nella stessa questione dei compiti, no? Ha detto sì. I compiti li facciamo a scuola perché poi chi è a casa e non può essere seguito ovviamente rimane indietro. Sì. E poi ho visto anche polemica o comunque perplessità su questa nuova materia che è stata ventilata, questa morale laica. La morale laica è stata ventilata, ricordiamoci che comunque il ministro dell'educazione è un filosofo e che comunque anche ha una pratica di insegnamento e la morale laica suona un po', diciamo, un po' di destra o di ritorno al passato, conservatrice. Se per morale laica si intende l'istruzione civica, come molti hanno compreso, ciò non ha niente di nuovo. In realtà il ministro intende con la morale laica tutto ciò che si preoccupa della persona, cioè di sviluppare tutte la libertà individuale, no? Dell'individuo. I principi che devono guidare l'azione di ognuno, quindi l'idea di umanità, la ragione, la cooperazione, il rispetto, eccetera, eccetera. E sono andati fino anche a proporre per le scuole elementari di iniziare la giornata con un proverbio che deve essere discusso dalla classe. E i proverbi che sono anche, non so, del tipo, le faccio un esempio, certo. Dura lex, sed lex, quindi che cosa vuol dire che la legge è quella che è, anche se è dura e che comunque bisogna tenersi alla legge, questo per i bambini elementari forse è una novità. Penso di sì, insomma una bella sfida con dei rischi ma delle potenzialità anche importanti. Antonella, ci vuoi ricordare il sito per conoscerti meglio e per seguire anche tutte le tue riflessioni in ambito scolastico? Allora, io ho un blog che si chiama Education à la joie, quindi www.educationalajoie.com e poi ho un'associazione che ha come come obiettivo quello di riunire tutti coloro che stanno lavorando, operando per il cambiamento dell'educazione in Francia e in un secondo tempo nel mondo. E si chiama Printemps de l'éducation, prende un po' l'ispirazione dalla primavera araba. Printemps vuol dire primavera. Sì. E il sito è www.printemps-education.org. Perfetto, pubblichiamo subito sui nostri social network. Grazie davvero Antonella, ma ci ritroveremo sicuramente per seguire lo sviluppo di questa riforma scolastica. Buon sabato, ciao. Grazie a voi, ciao. C'est une victoire municipale qui retentit dans toute la Belgique. Après 80 ans de règne socialiste, Anvers tombe entre les mains des indépendantistes flamands qui récoltent près de 38% des suffrages. Leur chef Bart De Wever revient ainsi sur le devant de la scène avec la même ambition, procéder à l'évaporation de la Belgique. Les Flamands doivent pouvoir gérer la Flandre comme ils l'entendent. Facciamo ora un salto in Belgio. Ci sono state le elezioni comunali, una forte scossa. Perché? Perché c'è stata una vittoria a sorpresa ad Anvers di De Wever, però non solo, in tutta la zona c'è stata una forte spinta indipendentista che ha fatto un po' eco a quello che sta succedendo in Scozia, dove appunto gli indipendentisti scozzesi hanno ottenuto il via libera per il referendum, ma tutto ciò ha riportato anche alla Catalogna nei confronti della Spagna. Insomma, per avere un quadro, per capire cos'è accaduto in Belgio e se veramente è stata l'ennesima miccia che tenta di mettere a repentaglio, di dare scossoni al desiderio di unità europeo, abbiamo invitato Francesca Spinelli, giornalista, traduttrice italiana, esperta di immigrazione, ha lavorato per Internazionale come copy editor, curatrice della rubrica L'Italia vista dai nuovi italiani, vive a Bruxelles dove continua a collaborare con testate italiane e francese. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Sei andata a votare anche tu? Certo, però bisognava iscriversi prima, nel senso che gli stranieri per votare in Belgio devono iscriversi qualche mese prima. Uh-huh. E questo è un problema perché molti non lo fanno, quindi i belgi poi si disperano perché vorrebbero coinvolgere di più gli stranieri, ma è difficile. Quali sono state le reazioni a queste elezioni? Intanto risultati completamente inattesi o ve lo aspettavate? No, non sono stati inattesi. In realtà si sapeva che i nazionalisti fiamminghi nelle Fiandre appunto sarebbero andati bene, c'era proprio la paura e si è avverato. E poi ci sono stati dei colpi di scena, ma sai, a livello molto locale, quindi poi anche poco interessante per gli stranieri, perché per esempio Bruxelles, che è una regione a sé stante, è divisa in 19 diciamo, circoscrizioni, e all'interno di queste circoscrizioni ci sono stati dei colpi di scena, di tradimenti, a partiti, ma diciamo che quella che è stata presentata come la grossa notizia, cioè il successo dei nazionalisti nelle Fiandre, era una cosa scontata. Mm-hmm. Quali saranno le conseguenze? Già si è parlato di qui si è fatta la storia, no? Toni enfatici. Loro ne parlano in questi toni. È vero che il Belgio comunque è un paese particolare, questo chissà si è visto poi con l'ultima grande crisi che è durata 541 giorni prima che riuscissero a formare un governo. Nel 2014 ci saranno le elezioni federali. Sì. E quindi c'è chi teme che il risultato adesso di queste elezioni locali possa influenzare il risultato del 2014. Non è detto, perché secondo molti studi gli elettori quando votano a livello comunale hanno delle preoccupazioni che non sono le stesse che poi li spingono a votare alle elezioni federali. Quindi non è detto, e in questi due anni bisogna anche vedere cosa saranno i nazionalisti adesso che hanno comunque ottenuto dei buoni risultati, per esempio cosa farà il loro leader Bart De Wever ad Anversa, perché loro sono sempre stati molto bravi a fare grandi dichiarazioni ma poi a non agire, no? Per esempio si sono tirati fuori dalle negoziazioni durante la crisi politica, quindi adesso per la prima volta bisognerà vedere cosa faranno poi all'atto pratico, se sono veramente bravi, se stanno a soddisfare le persone che le hanno votate, che non sono tutte indipendentiste, cioè gli elettori dei nazionalisti fiamminghi a volte sono solo persone che si sono stufate, per esempio ad Anversa, sì, del sindaco che c'era tanti anni e volevano un cambiamento. Certo, tu vivi a Bruxelles, siamo nel cuore d'Europa, e insomma, e c'è sempre questa questa forte contraddizione, no? Che proprio lì nel cuore d'Europa si parla fortemente di divisione. Secondo te però il Belgio o comunque viene vissuto come una metafora di quella che è l'Unione Europea, o sono due cose assolutamente lontane e distinte? No, secondo me si può davvero avvicinare, paragonare queste due dimensioni, perché appunto il Belgio, in particolar modo Bruxelles, è estremamente diversificato dal punto di vista delle persone che ci abitano, ci sono molti contrasti, quindi si cerca a volte il dialogo quando ci sono momenti di incomprensione, quindi in quel senso ricorda l'Unione Europea. E soprattutto il punto più interessante secondo me riguarda di nuovo le elezioni, nel senso che il motivo principale per cui poi il Belgio ha delle crisi così lunghe è che quando si deve, anche durante le elezioni federali, i partiti fanno campagna solo presso i cittadini della loro comunità linguistica. Sì. Quindi non esiste una circoscrizione elettorale nazionale. E c'è chi propone di cambiare questa cosa per far sì che i belgi, quando devono eleggere il loro governo federale, siano costretti a sentire politici di tutte le comunità linguistiche. E anche per l'Unione Europea c'è chi dice che c'è un problema da questo punto di vista, perché gli eurodeputati sono eletti a livello nazionale. Certo. C'è chi dice che se ci si creasse una circoscrizione elettorale europea, questo permetterebbe probabilmente all'Unione Europea di superare parte dei suoi problemi legati alle tendenze, no, di divisione. Francesca, cosa succederà nelle prossime settimane? Bella domanda, In Belgio o sì. In Unione Europea? No, mi accontento del Belgio per ora. Ma nelle prossime settimane, ma guarda, non è che ci siano, il governo federale sta ancora cercando di portare a termine una grossa riforma, e sicuramente i nazionalisti saranno seguiti da vicino da tutti per vedere un po' quali saranno le loro prime uscite. Mm-hmm. Ok, quindi insomma attenzione e attesa. Potete leggere, a parte questo bell'articolo Bart sei solo, dove c'è una lettura di quello che è accaduto in Belgio, ma anche tutti gli altri articoli sul sito di Internazionale, internazionale.it, il tag è quello di Francesca Spinelli. Hai anche un tuo blog, Francesca, che non lo so? No, ancora perfetto. No, ma dovrebbe arrivare. Okay, e noi lo aspettiamo. A presto, grazie davvero. Grazie, ciao Francesca. A voi, ciao. Europost-it. Click About It e fotografi il mondo che cambia. Click About It è il concorso fotografico per professionisti e non, indetto dal Centro Europeo di Giornalismo di Maastricht. Quest'anno il tema è Crisi e disastri e premierà le immagini che mirano a sensibilizzare le comunità sui problemi e sui cambiamenti negativi che affliggono la società moderna. Disastri naturali, conflitti politici, crisi finanziarie, vita urbana e cambiamento climatico sono temi assolutamente calzanti. I primi due vincitori, un professionista e un amatore, si aggiudicheranno un viaggio di reportage organizzato dal Centro Europeo per il Giornalismo. I successivi 5 vincitori riceveranno premi in denaro. C'è tempo fino al 29 ottobre 2012. Per maggiori informazioni visitate il sito new.clickaboutit.net. El Ojo Crítico. Radio Nacional. Son las 7 y 19 minutos de la tarde. Como seguramente todos ustedes saben, en la Biblia aparece la figura del ángel custodio, el ángel de la guarda, diríamos aquí en España. Es ese celestial que Dios designa para cada uno de nosotros de una forma diferenciada, con la misión de guiarnos y de protegernos. En fin, probablemente no fue una casualidad que el protagonista del libro del que vamos a hablar naciera ese día de los ángeles custodios de 1960, tiene por lo tanto 52 años recién cumplidos, que se ha pasado su mayor parte probablemente a un ángel custodio que le ayudara en los momentos de dificultad, quién sabe. El libro se titula Me deseo felices sueños, su autor es Massimo Gramellini, periodista, es además su director del diario La Stampa de Turín, está aquí sentado con nosotros. Bienvenido, Massimo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buonasera. Buenas tardes, anche se l'orario non è quello giusto, a Massimo Gramellini. Ciao Massimo. Ma io vorrei sapere, perché anche in Spagna devono sapere quanti anni ho, è una bugia, io ho 10 anni di meno, continuo a dare le mie date fasulle, non è affatto vero. L'ho proprio messo così nella presentazione. Diamo il benvenuto a Massimo Gramellini. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Mi piaceva averti perché... hai avuto il tuo esordio letterario, diciamo, in Spagna. Questa settimana hai presentato la traduzione del tuo libro in spagnolo e in catalano. Grande successo in Italia, ma un'ottima accoglienza anche in Spagna. Com'è andata questo tour di presentazione intanto? Hai notato qualche differenza tra quella che è così la campagna che si fa solitamente in Italia e invece come ti hanno accolto in Spagna? Ma devo dire che andando in un paese più crisi del nostro immaginavo che anche il mondo dei libri fosse nelle stesse condizioni, invece ho avuto la fortuna di trovare un editore che ha amato molto Faivés, che ha fatto una campagna stampa veramente incredibile, addirittura regala le agende dell'anno prossimo con la copertina del libro, insomma una grande campagna. Devo dire che ho visto Madrid e Barcellona, la crisi si sente, si vede per le strade, però c'è, gli spagnoli hanno questa straordinaria qualità che a noi italiani è subito all'occhio, che è la calma, la totale assenza di ansia. Quell'intervista di cui tu hai mandato uno stralcio era alle 19:15 in diretta, io sono entrato nello studio alle 19:14 e 58 secondi e nel tragitto nessuno mi ha fatto fretta, nessuno mi ha telefonato per dirmi, cioè in Italia dalle 3 del pomeriggio avrebbero cominciato a chiamarmi 20 persone diverse, devi arrivare puntuale, a dove sei, cosa fai? Ecco, gli spagnoli hanno questo senso del tempo straordinario, non è vero che arrivano in ritardo gli appuntamenti, sono sempre precisissimi, ma con un ritmo che io invidio loro moltissimo. E mi piace fare questa riflessione con te, visto l'accoglienza che ha ricevuto il libro, al di là del contenuto, al di là del fatto che è scritto molto bene, però sembra quasi che ci sia una voglia, soprattutto in tempo di crisi, perché la Spagna sta vivendo una crisi fortissima, crisi anche, non ti dico di valori, però di speranza, no? C'è una sorta di depressione latente, quasi di rassegnazione, però poi si ha voglia di parlare di verità, si ha voglia di parlare di sentimenti, e secondo te sono legate queste due cose? Ma io penso di sì, io credo che di fronte a una crisi di sistema, come quella in cui ci troviamo, che non è una crisi passeggera, ciclica, fai le grandi domande, che sono le stesse domande che ti fai quando hai un dolore come quello che ho avuto io da bambino, cioè quando una persona cara, cioè che senso ha tutto questo, cosa sarà della mia vita, e posso utilizzare questo trauma, questo dolore per cambiare me stesso. Io penso a tutte le persone, molte magari ci stanno anche ascoltando, che hanno perso un lavoro in questi anni, in questi mesi, o che non lo trovano, o che hanno un sogno da tanti anni che vogliono realizzare e naturalmente questa crisi non glielo facilita di sicuro. Tutte queste persone sono portate istintivamente a mollare, ad arrendersi, però se invece riescono a entrare dentro questo dolore, questa sofferenza e a provare con coraggio ad affrontarla, magari scopriranno delle parti di se stessi che altrimenti avrebbero ignorato per tutta la vita. Quindi la crisi è davvero anche, non solo naturalmente, ma è anche una grande occasione per cambiare se stessi. Penso che quando dici queste cose in pubblico e soprattutto le dici portando un'esperienza personale, non semplicemente una predica così moralistica, oggi, mai come oggi, le persone, specialmente i giovani, sono veramente molto sensibili a questo argomento. Quindi si può usare ancora la parola sogno? Ma non si deve usare, noi viviamo in un'epoca di bisogni senza sogni, bisogna tornare a mettere i sogni al centro del nostro pensiero, del nostro sentire. Questa è una società che va cambiata profondamente. Come puoi cambiare una società con le ideologie che sono tutte morte? No, la cambi semplicemente realizzando i tuoi sogni, cioè cercando di dare forma, nella forma possibile naturalmente, ai tuoi sogni, ma senza rinnegarli mai, perché io l'ho scritto anche nel romanzo, ma è una cosa in cui credo assolutamente. Un sogno è il tuo sogno, la ragione per cui sei venuto al mondo. Non, puoi fare di tutto, puoi anche rinnegarlo, puoi fare che non esista, ma lui tornerà sempre a tormentarti, perché tu sei qui su questa terra per realizzare quel sogno, quindi lui ti romperà le scatole finché tu non ti deciderai ad affrontarlo e a dargli ascolto. Massimo, un'ultima domanda, al di là del libro, al di là della tua presenza in quanto scrittore, ti hanno anche sfruttato in quanto italiano, ti hanno fatto domande, hai visto curiosità, ti hanno chiesto cose sullo stato dell'Italia in questi mesi? Ma sì, però devo dirti che mi ha stupito molto il fatto che in realtà spesso parlavano dell'Italia al plurale, cioè un noi, cioè l'Europa latina, cioè in questo momento in Spagna come in Grecia e come anche in Italia c'è un senso quasi di noi e loro sarebbero i tedeschi, no? Cioè i nostri competitor, per usare una parola raffinata, sono i tedeschi, e quindi in qualche maniera noi dell'Europa latina, cioè, sentiamo questo fastidio dell'idea che i tedeschi, il tedesco medio, si è fatto un'idea, secondo me sbagliata, che nell'Europa va benissimo, si sa tutti felici, meravigliosi, alle spalle loro, e che quindi adesso sia finalmente arrivato il momento che anche noi tiriamo la cinghia e soffriamo e che loro non possono più lavorare per tutti. Ora, questa cosa non è vera, io posso confermare che anche in Spagna vedevo gli uffici aperti alle 9 di sera con la gente dentro che lavorava, cioè questa idea, questa immagine dell'europeo meridionale che non lavora, del spagnolo, italiano. È veramente un luogo comune che andrebbe sfatato una volta per tutte. Grazie davvero Massimo Gramellini. Ricordaci com'è il titolo in catalano? No, il catalano non lo so, proprio dire, mi somiglia quasi a piemontese, devo dire, già riesco a fatica a dire me deseo felices sueños. In catalano ci sono un sacco di parole piene di consonanti, e, dato che non vorrei offendere qualche catalano all'ascolto, storpiando le parole, preferisco lasciarlo dire a lui. Grazie davvero Massimo, ciao, a tutti, buon sabato, buon weekend. Ciao. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Ina, Viola Frifa, Giorgio De Luca e Filippo Aureggi, che con me hanno collaborato alla puntata. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, fatevi vivi attraverso i social network oppure la mail è l'altraeuropa@radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.